signor Presidente. Se a parlare è solo un bambino, mi consideri un suo nipotino che ricorre quando ha paura. Ho sognato bagliori di guerra, che il fuoco ha avvolto la terra, un boato e in un istante è scomparsa l'umanità. Su, mi dica che non è vero, Dio come tremo, ho tanta paura, la scongiuro perché me lo giuri che mai tutto questo succederà. Su, mi dica che non è vero, Dio come tremo, ho tanta paura. I campi non sputeranno più spine, che l'intelletto concepirà pane e fiori, che la storia segnerà solo amore, che la terra tutta unirà. Dica John, dica ad Ivan, possano felici insieme giocare. Forse il cielo mi vorranno invitare, correrei spedito da loro. E se la guerra noi la faremo, sicuramente sarà solo per gioco. Questo succederà.